البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Buongiorno Palestina, su Radio Wombat tutti i mercoledì alle 17.30. Voci di donne è il titolo della trasmissione di questa settimana, in cui ricorre la festa internazionale delle donne. Ascolterete l'intervista a Zleika Mutaser, un'insegnante palestinese che vive e lavora nel centro di Hebron. Seguiranno due giovani donne, Giulia Terrosi e Alessandra Gola, che hanno scelto di impegnarsi in progetti sociali in Palestina. E infine la testimonianza di Ave Mazzetti, odontoiatra, che ci racconta le sue missioni in Palestina per il PCRF negli anni prima del Covid. Tutto questo subito dopo la consueta selezione stampa della settimana e un breve intervallo musicale. Buongiorno Palestina, sono Elena. Questa settimana l'Associazione Amicizia Italo-Palestinese ha selezionato per voi un notiziario che ho il piacere di presentarvi. Iniziamo con un aggiornamento sulla situazione del contagio in Palestina, di cui si è occupata un'interrogazione parlamentare firmata Boldrini, Fassina, Palazzotto con Yara Hem, che chiede quali azioni intenda intraprendere il governo italiano nei consessi con Israele affinché venga garantito, come recita l'articolo 56 della Convenzione di Ginevra, che i vaccini vengano distribuiti alla popolazione palestinese, Striscia di Gaza compresa. Questa interrogazione si è resa necessaria perché dalla campagna vaccinale iniziata alla fine di dicembre dal Ministero della Salute israeliano, che ha ottenuto riconoscimenti planetari, come sappiamo, perché vanta la maggior copertura vaccinale per i suoi oltre 9 milioni di abitanti, sono esclusi i palestinesi, 5 milioni che vivono nei territori occupati sotto il controllo militare, dove a metà febbraio i contagi erano quasi 193.000, con più di 2.000 morti in Cisgiordania, e a Gaza quasi 54.000, con oltre 500 morti. Ad oggi Israele ha fornito all'ANP, l'autorità nazionale palestinese, 2.000 dosi di vaccini per gli operatori sanitari, mentre le altre necessarie non si sa che tempi di consegna avranno. C'è da dire che l'ANP è inserita nel programma COVAX dell'OMS per i paesi in via di sviluppo. Ci si augura quindi che il governo di Israele, le autorità palestinesi e le autorità di Gaza debbano coordinarsi, sapranno coordinarsi efficacemente, lasciando da parte considerazioni di natura politica al fine di fornire gratuitamente, senza discriminazioni, i vaccini per il Covid-19. Consideriamo anche che la legge, l'articolo, in questo caso l'articolo 56 della Quarta Convenzione di Ginevra, obbliga il governo di Israele, nei territori che occupa, ad assicurare e mantenere le strutture, i servizi medici e ospedalieri, la salute pubblica e l'igiene, con particolare riferimento all'adozione e all'applicazione delle misure di profilassi e di prevenzione necessarie per combattere la diffusione di malattie contagiose e di epidemie. La seconda notizia, da un editoriale da Gerusalemme di Michele Giorgio del Manifesto, ci informa invece che la Corte Penale Internazionale dell'AIA, di cui fanno parte 123 paesi, con sede nei Paesi Bassi, attraverso la procuratrice Fatou Ben Souda, ha intenzione di aprire un'indagine su possibili crimini di guerra commessi da Israele nei territori palestinesi occupati, questo dal 2014 in poi, con un focus particolare sull'offensiva detta margine protettivo contro Gaza, che costò la vita a 2.000 palestinesi. Il governo democratico Biden-Harris ha prontamente condannato il procedimento e ha confermato il sostegno americano ad Israele da parte della nuova amministrazione. Le indagini comunque potrebbero richiedere anni prima che siano emessi eventuali mandati di arresto. Lo stesso ministro della difesa israeliano, Gantz, potrebbe essere un indagato e ha stimato che sono centinaia gli israeliani che potrebbero finire sotto inchiesta. La Corte comunque indagherà anche su Hamas, il movimento islamico palestinese, ma l'autorità nazionale palestinese è stata ovviamente diffidata da Israele dal collaborare all'inchiesta. Ma cambiamo decisamente argomento e diamo un'occhiata ad un articolo del quotidiano Liberation riportato da Internazionale che riguarda il tema dell'identità che passa questa volta attraverso la gastronomia. A Jaffa, infatti, ebrei ed arabi sembra si siano appropriati gli uni dei piatti tradizionali degli altri. Ma sarà questa trasgressione culinaria a testimoniare il desiderio di superare le differenze e affermare valori comuni? Lo potete scoprire leggendo questo curioso articolo che, partendo dai falafel e arrivando al dolce palestinese knafeh, che è stato rivisitato e riproposto, sembra con successo recentemente da due cuochi palestinesi come piatto della cucina alla moda, ci fa sospettare di un'appropriazione culturale. Forse, ma chi può dire chi l'ha inventato? Gli abitanti di Nablus, i circassi o gli egizi, forse i libanesi o i turchi? In ogni caso, l'antropologo Daniel Monterescu scrive delle considerazioni. Infatti, secondo lui, da un lato c'è la ricerca di auto-indigenizzazione di qualunque società coloniale. Fin dagli albori del sionismo, infatti, sembra che gli ebrei abbiano cercato di diventare un tutt'uno con il territorio, in particolare attraverso il cibo, con il rischio di compiere un'annessione gastronomica. Dall'altro c'è l'elevazione culturale dello street food, un fenomeno mondiale e neoliberista. In ogni caso, gli hipster di Tel Aviv sembra siano affascinati dall'Oriente. Considerano infatti i piatti arabi autentici, vintage. Per alcuni il sogno di convivenza passa attraverso il desiderio di mangiare come l'altro, anche a costo di mangiare l'altro. All'origine di questa moda, i due palestinesi che hanno azzeccato il business non si considerano assolutamente vittime. In un certo senso è un modo per reintrodurre i valori arabi a Jaffa, una sorta di Sumud, usando il termine arabo per resistenza. Buongiorno Palestina, continua con la segnalazione di un evento culturale che riguarda il film The First 54 Years del documentarista israeliano Avi Mograbi, che sarà presentato alla Berlinale 2021. Praticamente è la storia dell'occupazione israeliana della Palestina dal 1967, cioè dalla Guerra dei 6 giorni. Il regista, classe 1956, i cui film sono visti più all'estero che in patria, dove pochi sembrano interessati e dove comunque le sale cinematografiche sono chiuse da un anno, ci propone un documento di inchiesta e ricostruzione dei fatti attraverso le testimonianze di ex soldati, ma non solo. Infatti, l'idea geniale è quella di proporre una specie di manuale dell'occupazione, cioè. Il regista si pone la domanda: vuoi annetterti dei territori? Ecco come si fa. Il personaggio, che poi è Avi stesso, ti spiega come su YouTube ci sono i tutorial, come si fa ad appropriarsi della terra degli altri, della terra altrui. È un moderno Machiavelli che racconta ad un principe immaginario come si deve fare. È curioso da vedere. L'articolo era di Eugenio Renzi, tratto da Alias del Manifesto del 27 febbraio. La rassegna di questa settimana si conclude con il ricordo di Giorgio Forti, di cui scrive Paola Cannarutto sul sito di Associazione Amicizia Italo-Palestinese, esponente di ECO, Ebrei contro l'occupazione, professore presso la Facoltà di Scienze dell'Università Statale di Milano, che ci ha lasciato il 2 marzo scorso all'età di 90 anni. Sostenitore, tra le altre, della campagna per il BDS e di molte iniziative a sostegno dei palestinesi, sia in Cisgiordania con la famosa scuola di gomme sempre minacciata di demolizione che a Gaza. Collaborava tra le altre con l'ANPI, la ONG Vento di Terra, e grazie a lui la ECO, Ebrei contro l'occupazione, aveva ottenuto il premio Feltrinelli dell'Accademia Nazionale dei Lincei per un'impresa di alto valore morale ed umano. Nel concludere, La trasmissione, anche noi, che lo intervistammo su questa radio nel giugno scorso, vogliamo ricordare Giorgio Forti e lo vogliamo fare mandando in onda la sua voce in un breve tratto di quella intervista. Gli articoli di cui abbiamo parlato li potete leggere in italiano con le rispettive fonti, sempre sul sito di Associazione Amicizia Italo-Palestinese. Con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata, alla prossima. Questi due rabbini hanno convenuto, discutendo di religione, che è più giusto che i bambini beduini abbiano una scuola piuttosto che il non averla. E quel rabbino, in suoi interventi evidentemente personali ma influenti, è riuscito finora a fermare quelle famose ruspe che sono là col braccio alzato. Questa è la situazione attuale. Si spera che quelle ruspe non distruggano mai quella scuola. حمل التفاح هيا يا عيني هيا ماخذ من بلد الملاح محمد يا نور عنايا هيا يا عيني هيا ماخذ من بلد الملاح محمد يا نور عنايا شيخ الدبيج لوح بيمينك قطعت قلبي وانا داخلك وان غيبت عني القمر بديلك يا ابو محرام الدلع عند العونه يا ابو الشباب وشبب عسينك خلي الدبيجي تتعلم منك لفر القضا ما بلقى زيك يا ابو الشباب دلع Dal webinar del 25 febbraio, organizzato da Assopace Palestina in occasione della campagna Open Shuhada Street, ascoltiamo la testimonianza di Zleika Mutaser, che a Hebron lavora anche come guida turistica e che da decenni oppone una strenua resistenza all'occupazione israeliana, continuando a vivere nel centro storico, in quella che è stata definita una città fantasma. Literature and Education and Psychology at Hebron University. I taught in the public schools for some time and then. Allora, Zleika Mutashib ha studiato letteratura inglese all'Università di Hebron e ha insegnato a una scuola pubblica per diverso tempo, ma poi in seguito ha deciso di lasciare perché ha la sua attività, che è quella di gestire un kindergarten, un asilo per bambini, e per lasciare spazio al suo attivismo verso i diritti umani e in particolare anche come guida turistica di Hebron. I started my activism against the occupation in the early 90s maybe. E ho iniziato il mio attivismo negli anni 90, all'epoca della prima intifada, dove l'occupazione militare israeliana stava diventando sempre più invasiva nei confronti dei territori palestinesi, soprattutto per quanto riguarda la vita, diciamo la normale vita palestinese, e gli attacchi verso la terra, le persone diventavano sempre più frequenti. In 1994, when the massacre happened, I was in the mosque. E nel 1994, quando accade l'attacco dei soldati dell'occupazione israeliana all'interno della moschea di Abramo, Zleika era all'interno della moschea. E visto che ha assistito all'attacco e al massacro che avvenne all'interno della moschea e ne parlò pubblicamente ai giornalisti anche internazionali, venne minacciata più volte dai soldati dell'autorità israeliana. By non-violence. And my tour guiding is really one of the non-violent ways of resistance. Il modo di Zleika per resistere all'occupazione che diventa sempre più pervasivo, soprattutto ad Hebron, è quella di continuare con questi tour all'interno della città di Hebron, raccontando attraverso la resistenza non violenta la vita dei palestinesi in una zona molto particolare, purtroppo vittima dell'occupazione. Violations against the Palestinians, against my people, the children, women, men, on the houses, in the streets, everywhere, of course, I mean. E vivendo, essendo una cittadina, un abitante della città vecchia di Hebron, assisto a violazioni dei diritti umani quotidiane, soprattutto nei confronti dei bambini, ma anche degli uomini e delle donne che vivono all'interno sia della città, di quelle persone che sono rimaste all'interno della città vecchia, ma anche all'interno della città in generale di Hebron. Sleika vive con estrema rabbia la situazione quotidiana e cerca di fare tutto quello che è nella sua possibilità per poter aiutare il suo popolo, il popolo palestinese. For example, any part of my main work to support people is during the second Intifada 2000, I used to go to the checkpoints. E durante la seconda intifada nel 2000, Sleika è riuscita, grazie all'aiuto sia dei bambini che delle altre compagne e compagne palestinesi, a raggiungere l'obiettivo di riaprire una delle più vecchie scuole che era stata chiusa a causa dell'occupazione israeliana, che è una scuola che si chiama Al-Ibrahimia, una scuola vecchissima della città vecchia di Hebron. E grazie, diciamo, a questa solidarietà collettiva, i bambini e Sleika bussavano di porta in porta nel quartiere, comunque tra i vicini, riuscirono a riprendersi la scuola occupata. E come diceva anche prima, una delle sue attività era quella di accompagnare i bambini a scuola attraverso i checkpoint che devono quotidianamente attraversare per raggiungere la scuola. E i bambini che devono raggiungere la scuola devono attraversare due o tre checkpoint e una delle sue attività di Sleika era quello di insegnare ai bambini come interagire e come comportarsi nel momento dell'attraversamento dei vari checkpoint. Of course, I do lots of activities for the children, for the women, for everybody to help them stay in the old city. In difesa appunto soprattutto del popolo palestinese, di quei pochi palestinesi che sono rimasti a vivere all'interno della città vecchia, è quella di occuparsi principalmente della condizione dei bambini e delle donne, in modo da poter continuare una vita dignitosa anche in quella situazione. For 20 years I've been doing the psychosocial support program with the children and with the mothers. E per 20 anni si è occupata di un supporto psicosociale, soprattutto rivolto alle donne e ai bambini della città vecchia. Tutto questo per riuscire a trovare degli strumenti per affrontare il trauma, lo stress, la paura che derivano dalla situazione di occupazione, perché cioè, ci possiamo solo immaginare come può essere vivere e affrontare quotidianamente un'occupazione aggressiva come quella militare israeliana. One of my main things that I do is to encourage the people to come to the old city also as a tour guide. People from Hebron, many people unfortunately. E, sempre riguardo all'attività di questi tour che vengono organizzati da Sleika all'interno della città vecchia, addirittura organizza questi tour per le stesse persone che abitano Hebron ma che non stanno all'interno della città vecchia. Questo perché per tante persone, tante persone che abitano ad Hebron non visitano Hebron vecchia da più di 20 anni. E lei organizza appunto questi tour anche dentro la Moschea di Abramo, dentro Shuada Street fino a dove è possibile e soprattutto i suoi tour comprendono anche l'insegnamento di come comportarsi ai checkpoint, anche perché tantissime persone palestinesi, anche di altre città, delle città vicine, non si avvicinano perché hanno paura, perché in televisione, anche attraverso i giornali locali palestinesi, si vedono di persone che vengono anche ammazzate ai checkpoint. Quindi ovviamente lei cerca di fare questo lavoro di sostegno alla città vecchia, insegnando a come comportarsi. When we talk about the situation in Hebron in general, it's not easy. Yani going back to 20 years till now, it's really getting worse. Maybe during the Intifada, yani. E Sleika ci racconta una realtà che è peggiorata sicuramente in maniera drammatica negli ultimi 20 anni e nessuno parla della violenza dei soldati nei confronti dei palestinesi, neanche i media e la differenza anche ci racconta rispetto a prima che magari appunto la violenza contro i palestinesi veniva in qualche modo raccontata, mentre adesso nulla di quello che succede a Hebron, soprattutto nella città vecchia, viene detto. E racconta che appunto la vita come residente all'interno della città vecchia di Hebron è difficilissima. E a causa della presenza di checkpoint o comunque della militarizzazione della città vecchia, fare una strada che diciamo in condizioni di normalità impiegherebbe 5-10 minuti, per i palestinesi che abitano dentro la città vecchia ce ne vogliono almeno 45. Sometimes even going from one checkpoint to the other or in the closed areas, it's not allowed for the Palestinians, especially. Sicuramente quest'anno, anche nella situazione di pandemia, la situazione è nettamente peggiorata, tant'è che alcuni checkpoint non sono più diventati nemmeno attraversabili per i palestinesi, cosa assurda perché magari abitano dall'altra parte del checkpoint e non gli viene neanche permesso di attraversarlo. Even going to the mosque. There are lots of restrictions. The number restriction. Now only 40 people are allowed in the mosque at one time. E dice che anche andare alla moschea di Abramo, che come sappiamo tutte e tutti è un luogo molto importante per l'Islam, è diventato praticamente impossibile. E l'occupazione militare utilizza la scusa della situazione del coronavirus per limitare ancora di più l'accesso alla moschea. Adesso possono entrare 40 persone alla volta e spesso anche con delle ulteriori restrizioni, non importa se è il venerdì, il giorno della preghiera, oppure nelle preghiere, diciamo, quotidiane. E per passare i checkpoint, tutte le persone che attraversano, tutti i palestinesi che attraversano i checkpoint, vengono controllate dalla testa ai piedi, non importa se uomini, donne o bambini, diciamo, nel tentativo da parte dei soldati di trovare qualcosa che possa essere utilizzato contro di loro. Infatti capita molto spesso che attraversando i checkpoint le persone vengano detenute poi in prigione con la scusa dell'aver trovato dei coltelli, che spesso, come sappiamo, non è reale, o degli oggetti di metallo. The detention of these boys happens almost every day. Last week I had a tour, and when we were there waiting for our turn to go inside. La settimana scorsa, durante uno dei suoi tour dentro la città vecchia, erano nei pressi della moschea di Abramo e un ragazzo con cui era di 15 anni è stato arrestato ed aveva la sua bicicletta e il soldato lo accusava di minacciarlo con la bici ed è stato appunto portato in prigione. Ci sottolinea, ci racconta Sleika come appunto le difficoltà che vivono i bambini quotidianamente nel raggiungere le proprie scuole, passando tra checkpoint, e di quanto sia comune il fatto che i bambini vengano arrestati durante questi controlli. La settimana scorsa, come avrete visto, ha nevicato anche in West Bank di Gerusalemme e i bambini si sono divertiti anche giocando. E l'assurdità dell'occupazione, come racconta Zeika, che dei ragazzi nella città di Hebron, giocando a palle di neve, hanno colpito anche dei coloni e sono stati arrestati per questo motivo. In front of my house, or from the roof, in front of my roof, actually, there's a military camp that used to be the central bus station. Fronte alla casa dove abita Sleika stanno continuando dei lavori per la costruzione di infrastrutture dove appunto ci sono gli occupanti israeliani che continuano a scavare per costruire appunto queste nuove infrastrutture, nonostante sia stato vietato la continuazione di costruzione di infrastrutture in quel luogo. E più volte appunto questo campo militare che si trova di fronte alla sua abitazione le ha intimato di non restare sul tetto della sua casa perché non deve essere vista dalle persone. Questo è un esempio della violenza dell'occupazione. Of course, there is a lot to talk about the settler violence, the military violence, the situation in general, and I just gave you some idea about. E altri esempi della violenza brutale dell'occupazione, che non soltanto riguarda ovviamente purtroppo la città vecchia, ma anche la demolizione delle case come la confisca della terra. E lei ci stava raccontando che a Jatta, che è un villaggio, un paese vicino a Hebron, continuano le demolizioni delle case soprattutto, e raccontava anche di un uomo che è rimasto paralizzato a causa di una di queste delle demolizioni della sua abitazione. Giulia Terrosi, una giovane laureata in scienze politiche, ci racconta la sua esperienza di lavoro come project analyst per CDCD, una ONG che opera a Gerusalemme Est e si occupa di progetti finanziati dall'Unione Europea e mirati a programmi di pace e di sviluppo. CDCD sta per The Center for Democracy and Community Development ed è un NGO palestinese che lavora nel lato palestinese di Gerusalemme, East Jerusalem, e si occupa di specialmente, ovviamente, per i diritti del popolo palestinese, con special focus sull'Arab Peace Initiative, che sarebbe un progetto grandissimo che dura da anni, che prevede appunto dei punti di connessione tra la Palestina e Israele per riuscire a trovare una convivenza equa, soprattutto appunto per il popolo palestinese. Era una passione e, avendo avuto l'opportunità di conoscere questa NGO, decisi di fare il mio periodo di prova, di stage, laggiù. Quindi ho finito il master, ringraziando il cielo mi hanno presa, e quindi ho avuto la bellissima opportunità di lavorare per loro, e come mansioni mi occupavo proprio della scrittura progettuale di tutti i progetti che avevano, appunto anche dell'Arab Peace Initiative, ma un altro progetto molto importante che avevano era proprio quello di occuparsi della popolazione beduina, e che purtroppo per quella realtà là si trova proprio in uno dei livelli più bassi della tutela dei diritti, perché non è riconosciuto né dalla parte israeliana né dalla parte palestinese, abitando nell'area C di quella che è Israele, non possono assolutamente costruire case di mattoni, ma solo di materiali come ferro, plastica, perché altrimenti vengono demolite. Non hanno nessun diritto e soprattutto non avevano rappresentanza politica, perché essendo una popolazione beduina non avevano mai avuto interesse ad essere rappresentati né da uno Stato né da un altro. Sì, praticamente dagli accordi di Oslo del 93 fu decisa una divisione all'interno della Cisgiordania in tre zone: zona A, B e C. La zona A prevedeva il pieno controllo dell'autorità palestinese, la zona B il controllo civile palestinese e per quanto riguardava la sicurezza israeliano, mentre nella zona C vi è pieno controllo israeliano. Appunto questa popolazione beduina abitava abita tuttora nella zona che è riconosciuta come zona C. Cosa ti ha colpito di più? Allora, la divisione era eclatante, la vedevi, proprio la famosa Green Line, che nient'altro è che una strada dove passa un tram, tra l'altro, e oltre quella strada lì, da una parte c'era la parte israeliana di Gerusalemme, dall'altra c'era la parte araba di Gerusalemme, e negli uni, negli altri la attraversavano questa strada. C'era una forte divisione. Da la parte di Gerusalemme East si poteva accedere alla porta di Damasco, che entrava nella Old City, nella città vecchia. E all'interno della città vecchia c'era proprio la classica divisione tra la parte israeliana, musulmana, cristiana e la parte della popolazione armena. Quello che ho potuto vedere è assolutamente una zona militarizzata, estremamente militarizzata da parte appunto delle autorità israeliane, ovvero soldati con armi ovunque, era la normalità, e soprattutto la grande differenza tra la parte israeliana di Gerusalemme era che la parte israeliana era sempre molto moderna, con questi negozi super Occidentali. molto occidentali, fashion, eccetera, e mentre nella parte di Gerusalemme East, araba, molto più simile a una capitale proprio del mondo arabo. Vorrei chiederle se lei si sia sentita in tutta Gerusalemme protetta allo stesso modo, cioè in una situazione di sicurezza, muoversi magari anche di notte o da sola, oppure se ha avvertito delle differenze tra queste parti della città. Assolutamente nessuna differenza, io avevo casa a Gerusalemme East e sono stata benissimo, ho conosciuto persone meravigliose, tornavo a casa anche tardissimo la sera e non ho mai avvertito sensazioni di pericolo. L'unica volta che è potuto capitare una sensazione di pericolo, un paio di volte, non ero a Gerusalemme. E dov'eri? Allora, una volta è successo un checkpoint, al checkpoint di Ramallah, e perché sono quelli i posti in cui vedi l'assoluta disparità che c'è tra un popolo e un altro, e per chi c'è stato ha presente com'è la situazione lì, ci sono tanti autobus, tanti share route, tanti taxi, eccetera, e ero lì in attesa di salire su un altro mezzo e a un certo punto mi sono ritrovata in mezzo a una sparatoria che era così, ovvero da una parte soldati israeliani che hanno aperto il fuoco su dei ragazzini palestinesi in mezze maniche, in t-shirt, che erano lì a giocare, e i soldati israeliani, tutti belli bardati con i loro bei caschi, hanno aperto il fuoco con questi ragazzini perché dicevano che i ragazzini gli avevano tirato addosso delle pietre. Quindi mi ricordo di essermi rifugiata sotto un pilastro di cemento, non mi è successo assolutamente niente, anzi, purtroppo per chi vive a lungo in questi posti sono cose che possono capitare e che fanno vedere l'assoluta disparità di potere. E la seconda volta in cui invece non ti sei sentita proprio a tuo agio, non sei stata in una situazione di comfort, diciamo? Purtroppo la seconda volta è stata la fine della mia esperienza bellissima che ho avuto in Palestina, a Gerusalemme, ovvero rientrando da un paio di settimane di ferie che avevo preso a dicembre. Io dovevo rimanere là ancora a lungo perché anzi dovevo iniziare un contratto di lavoro, eccetera. Però purtroppo mi bloccano alla dogana a Ben Gurion. Niente, mi tengono 4 ore nel bunker. Ma perché cosa era successo? Cosa era scritto sul tuo passaporto che ha allarmato la sicurezza israeliana? In realtà è successo che io ero rientrata e avevo ancora il visa turistico che non era scaduto, e a loro questa cosa non gli tornava, perché ero a termine del mio visa, e questa cosa a loro mi hanno bloccato subito alla dogana, perché dicevano: ma te perché sei qui? E io gli ho risposto che ero lì comunque per confermare il turismo, insomma, per visitare, eccetera, eccetera. Loro ovviamente non ci hanno creduto a questa cosa, quindi mi hanno bloccata e mi hanno interrogata con la tecnica del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, perché volevano sapere cosa stessi facendo veramente lì, e hanno iniziato a contattare i numeri telefonici locali che avevo sul telefono, i miei amici, per chiedere che cosa io stessi facendo lì. Vuoi farci un esempio di una di queste spedizioni, di uno di questi viaggi in cui sei stata coinvolta, che magari ti ha lasciato un ricordo particolare? Allora, andavamo spesso appunto a visitare la popolazione beduina nell'area C, che tra l'altro collabora con Oxfam, o in particolare con Vento di Terra, che hanno aperto una scuola per i bimbi e per le bimbe, e oltre a questo anche per fare empowerment, ovvero per rendere le donne indipendenti, le donne hanno aperto questa gioielleria, bravissime, fanno questi orecchini, questi braccialetti stupendi, e questo le dà modo di rendersi autonome anche economicamente. Mi ricordo tutti questi viaggi che facevamo lì e parlavamo le ore, insomma, stavamo con loro, ci raccontavano la loro quotidianità, che è una quotidianità difficile, molto difficile, perché ogni giorno non sai cosa può succedere, non sai, temi per la sicurezza dei tuoi figli, delle tue figlie, dei tuoi parenti, delle persone a te care, perché capita spesso che arrivino gli israeliani a distruggerti, insomma, le casine che loro cercano di mettere su con lamiere di legno, di ferro, o che sparino al bestiame, o che rompano i serbatoi dell'acqua. E tornando un attimo alla realtà dei palestinesi, ti volevo chiedere se, in quanto donna volontaria in una terra comunque di cultura prevalentemente musulmana, e soprattutto se il fatto di essere appunto donna emancipata ti ha mai creato, se hai mai sentito una difficoltà a comunicare con il mondo palestinese, o se invece è un pregiudizio tutto occidentale. Io, essendo occidentale e venendo da fuori, non mi sono mai sentita prevaricare o zittire in quanto donna. Però questo era dovuto, me l'hanno anche spiegato, al fatto che io venivo da fuori, quindi era una realtà esterna. Altra cosa devo dire, però, nella quotidianità, quando entravamo nelle case, in alcune case, in alcune realtà, ci poteva essere la classica divisione dei ruoli, ovvero le donne che si occupavano della cucina, di servire il mangiare, dei bambini, eccetera, mentre gli uomini stavano a parlare, a gestire, insomma, il dialogo. Ci possono essere queste realtà. Devo dire che ho incontrato anche realtà diverse, in cui famiglie in cui le donne vengono trattate equamente, esattamente come gli uomini. Molto dipende dal contesto familiare, insomma. قبل ما تفضل ما كانت عايشة نسرد قصتها بالعكس من الجريمة للولادة جثتها قفزت من الحفرة لحفة الأرض طلعت العظم من جبينها وانبلعت بالفرد صدى صوتها صرخ وهي ردت عليك دموعها تصعد من الخد للعينين من ورا غمة الدخان وجوه العيلة أخوها بلا خجل حط الفرد بجيبة مهزلة بمجراف ودهن عرق عجبينه بهزت راس اكتفى من القبر ومقاييسه جروها على السيارة هي تضرب أقدامها كعاصفة رمال تمحي أفر بعثاتها دخلوها على البجاج مش عارفة لوين بس عارفة انهم طلعوا ثلاثة وراجعين اثنين وصلوا البيت رموها بعنف على التخت صحوها بطريقة لو ترجعي بالزمان كنت بطل تسمعي

Nel chiudere questa trasmissione vi ricordiamo gli eventi importanti da non perdere. Organizzato da Assopace Palestina in occasione dell'anniversario della nascita 80 anni fa, ricordo e attualità di Mahmoud Darwish, il grande poeta del mondo. Tre gli appuntamenti sul web. Il 13 marzo, giorno della nascita, alle 18, il primo incontro dal titolo Un ritratto di Mahmoud Darwish attraverso i racconti e le testimonianze. Il 18 marzo alle 21 il film Mahmoud Darwish e la terre come la langue, sottotitoli in italiano. E infine il 21 marzo alle 18 Poesia e musica, l'omaggio degli artisti ai versi di Mahmoud Darwish. Tutto questo con la collaborazione di Wasim Damash, Nabil Salamè e Simone Sibilio. Vi ricordiamo inoltre che la settimana dal 14 al 21 marzo è la settimana contro l'apartheid israeliano, la Israel Apartheid Week, organizzata dal movimento BDS. Date le limitazioni imposte dal Covid, l'obiettivo è quindi la estensione degli SPLAI, spazi liberi dall'apartheid israeliana, e il volantinaggio per la campagna per il boicottaggio. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! Jump, jump, jump.